Sei la canticchiante danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, esattamente alle 15 proprio in punto, oggi iniziamo nonostante la sigla, 46 sono i secondi dopo le 15 e iniziamo quindi la nostra rassegna, non è una rassegna stampa ma anche, è anche una rassegna di ciò che è successo nell'universo penitenziario in questa settimana e comunque negli ultimi giorni e quindi intanto un augurio di buona libertà a coloro che ci ascoltano perché ne sono privati e vediamo cosa è successo. Allora, intanto vi volevo raccontare di un convegno che si è c'è stato giovedì scorso, quindi quasi una settimana, giovedì 25 di febbraio, c'è stato un convegno a Firenze promosso dall'associazione Liberarsi della necessità del carcere, che è un'associazione che è di lungo periodo e che ha proprio come obiettivo, come dice la parola, liberarsi non solo del carcere ma della necessità del carcere, ossia prima di tutto quindi capire perché una società ha bisogno del carcere, fa uso del carcere, ci sarà un motivo, e quindi capire questo motivo e quindi aggredire il motivo, non la conseguenza. Il carcere può essere la conseguenza di una società che ha questo strumento orribile di tortura, di massacro che è il carcere, e che però lo usa per qualche obiettivo, per un certo obiettivo. E quindi il tema questa volta molto interessante che hanno lanciato, a cui appunto sono stati invitati parecchie persone a dibattere, ma hanno invitato anche a me, abbiamo fatto una serie di discussioni interessanti a mio avviso e avviso un po' di tutti, perché il problema è rilanciare una, come dire, un dibattito ma anche una pratica, vedendo poi come, sull'abolizionismo carcerario. L'abolizionismo carcerario è una vecchia pratica, cioè più che altro una vecchia teoria, che però ha avuto anche riscontri pratici, meccanismi pratici, cioè in alcuni posti dove c'è stata una battaglia di questo tipo sull'abolizionismo carcerario, in realtà la popolazione carceraria è diminuita di molto. C'è il caso per esempio della Norvegia, che tra l'altro ha dato i natali a alcuni grandi teorici dell'abolizionismo. Beh, in Norvegia non sono arrivati all'abolizionismo, però quando era, diciamo, egemone questa cultura dell'abolizionismo, quindi del fatto che il carcere è uno strumento vecchio, desueto e soprattutto antiumano, cioè da respingere, quindi perché distrugge le vite umane, come fosse la morte, come fosse appunto la tortura. E comunque si era iniziata una strada che ha portato la Norvegia negli anni fine 60 a arrivare a 250 detenuti, insomma un numero veramente esiguo dalle tante migliaia che aveva prima, quindi stava avviandosi sul terreno della abolizione del carcere con altre misure alternative, quelle che poi sono state chiamate misure alternative, cioè altri modi di sanzione che non fossero la privazione della libertà, la reclusione, l'emarginazione, la deportazione. Poi questa cosa è saltata e vabbè, poi possiamo anche discutere insieme dei motivi perché è saltato questo percorso. Questo si chiamava riduzionismo carcerario, era una costola minore dell'abolizionismo carcerario. La parola abolizionismo, come sapete, viene da lontano, viene dal grosso movimento che ha cercato ed è anche riuscito ad abolire la schiavitù. La schiavitù era un meccanismo molto antico che probabilmente c'è da sempre, sicuramente a memoria d'uomo, negli antichi imperi, anche in antiche insediamenti umani, cioè c'è molto, molto spesso le antiche insediamenti umani utilizzavano la schiavitù che come appunto uso della forza lavoro. Gli schiavi quasi sempre appunto in queste antiche civiltà erano coloro, i prigionieri di guerra li chiameremo oggi, cioè in uno scontro in uno, tra villaggi, tra gruppi insediamenti umani, ma anche tra paesi un po' più grossi, anche imperi, c'era il perdente, venivano i perdenti dell'esercito, della popolazione che combatteva, venivano presi in consegna e da quel momento in poi facevano gli schiavi, cioè lavoravano a volontà di chi li teneva schiavi, cioè del padrone, venivano mantenuti in vita soltanto pure per continuare a fare gli schiavi, a essere schiavi, e dormivano in delle catapecchie e quindi e producevano tutto quello che serviva, facevano i lavori più umili, a volte anche i lavori interessanti, insomma, per esempio, voi sapete che per esempio chi ha studiato un po', chi ha letto anche libri sull'antico impero romano, per dirne uno, perché stava vicino a noi, insomma, abitava queste terre che abitiamo anche noi, anche se aveva molto poco in comune con quello che abbiamo noi adesso, più i riferimenti a quell'impero antico l'hanno preso più gli stati inglesi, quello del mondo britannico e anche un po' di quello tedesco, ma sicuramente l'Italia invece con i comuni si è separata completamente da quella esperienza ed ne ha praticate altre. Vabbè, a parte questo, comunque il problema, quindi la schiavitù c'era da sempre, tanto tempo, appunto il prigioniero di guerra, appunto, diciamo, basta ricordarsi qui a Roma e in Italia, cioè c'è dove la produzione del grano che serviva a gran parte della mantenere in vita gran parte delle persone in Sicilia c'erano queste grandi pianure, in Sicilia, nel sud Italia, Puglia e Sicilia, venivano piantate queste piantagioni di grano da cui poi appunto si facevano la farina, il pane, eccetera, ed era un alimento centrale soprattutto per la povera gente. Bene, chi lavorava a questi campi di grano erano ovviamente gli schiavi che abitavano venivano appunto messi, serviva tanta forza lavoro, quindi venivano portati in questi terreni tutti questi schiavi, messi sotto comando militare, ovviamente c'erano i pretoriani, i soldati che li controllavano. Finito di lavorare andavano in questi baraccamenti, erano dei lunghi baraccamenti come fosse una lunga baracca separata, e entravano dentro, c'erano così si buttavano su una coperta e dormivano e la mattina dopo ricominciava la vita. Questi baraccamenti dove stavano gli schiavi si chiamavano ergastolum. Come vedete, il rapporto quindi tra schiavitù e sistema carcerario è molto legato, perché questa parola ergastolum richiama appunto l'ergastolo, che è una sanzione abbastanza diffusa di cui si discute in questo paese e in questi tempi. Perché si chiamava ergastolum? Perché appunto erga richiamava per sempre, starei qui per sempre, questa è la tua vita, e tutto quello che fai, tutte le tue attività sono sottoposte al controllo del padrone, di chi è il padrone. Ora ovviamente questa condizione umana non era piacevole per chi la subiva, e quindi ha dato luogo a tantissime rivolte. Famosa, come sapete, è quella della rivolta dello schiavo Spartaco, che ha messo in difficoltà il più grosso esercito mai conosciuto dall'umanità, che in quei tempi ovviamente che era appunto quello romano. Le legioni romane sono state battute più volte da questo esercito di schiavi e poi alla fine ovviamente sono stati sconfitti, massacrati e distrutti, ma ve ne sono state tante altre. Andiamo più recente, per esempio c'è la famosa rivolta della popolazione di Haiti, la grande Haiti, all'indomani della Haiti era un possedimento francese. In Francia alla fine del Settecento si sviluppa la rivoluzione francese, no? 790, 92, eccetera. Gli echi di questa rivoluzione francese all'insegna di Liberté e Galité arrivano pure oltreoceano, e gli schiavi di Haiti, sottoposti a padroni francesi che però avevano cambiato il gabinete e si ritenevano rivoluzionari, quindi a nome di Liberté e Galité, diceva: se siete Liberté e Galité non si capisce perché ce la siete, e sono ribellati. Cioè, ovviamente i francesi, per quanto fossero all'insegna delle parole d'ordine Liberté e Galité, volevano mantenere gli schiavi, e quindi scontri feroci, eccetera, però hanno vinto questi schiavi, hanno preso il potere ad Haiti per qualche giorno, poi sono arrivate le navi degli altri armati francesi e l'hanno schiacciati, distrutti, ammazzati. Però la rivolta degli schiavi di Haiti ha infiammato tutto quell'area lì, l'area del Centro America, e si è diffusa tutto. Insomma, tante rivolte, tutte sconfitte degli schiavi, e però hanno messo in discussione il concetto di schiavitù, al punto tale che intorno al 600 o 500 è stata abolita la schiavitù. Quel movimento, che era molto forte, l'ultimo paese che ha abolito la schiavitù è stata gli Stati Uniti d'America. Come sapete, c'è stata necessaria una guerra civile per abolire la schiavitù, però appunto è stata abolita anche lì, perché i grossi campi di cotone venivano appunto coltivati con l'uso della forza lavoro schiava, non quella libera, non quella salariata, ma quella schiava. Il movimento che ha attraversato secoli, che voleva portare all'abolizione della schiavitù, è stato chiamato appunto abolizionismo. Il carcere, che ha molti legami con questo antico sistema di tenere sottoposti delle persone, cioè con la schiavitù, il carcere ha molte similitudini con la schiavitù, è un aspetto della continuazione della schiavitù, cioè per alcune persone ritenute non adatte al vivere civile cosiddetto, quindi condannate, chiamate delinquenti, criminali eccetera, si stabilisce un regime particolare di non avere nessuna libertà, infatti privati della libertà, no? Quelli che stanno in carcere, tutto quello che fanno dipende da un padrone, in questo caso non è un padrone fisico ma è l'ordinamento penitenziario, però è come se fosse un padrone, quindi erga anche loro tutto quello che fanno, le loro attività, il muoversi, la vita stessa, le attività sono sottoposte al regime carcerario. E poi c'è anche l'ergastolo quando questo è per tutta la vita, e insomma, quindi ha molto a che vedere con la schiavitù. Per cui quando dopo soprattutto il secondo conflitto mondiale, traumatizzati molte persone, molti intellettuali soprattutto del nord Europa, aver vissuto quel grande massacro che è la seconda guerra mondiale, 60-70 milioni di morti, una cosa spaventosa. Non solo quello, ma all'interno di quel grande massacro una cosa ancora più devastante, assurda, ossia i campi di concentramento. I campi di concentramento che erano una cosa inaccettabile, no? Dove con parte milioni di morti poi cremati nei forni crematori, ma soprattutto il ridurre degli esseri umani a zombie, no? Questo è stato detto, raccontato in film, libri ed altro, no? L'assurdità del campo di concentramento. E siccome nel nord Europa ce n'erano tanti, i tedeschi, le truppe naziste avevano messo campi di concentramento un po' in tutti, da la Polonia, la stessa Germania, Polonia e via via, dovunque occupavano mettevano questi campi di concentramento, e quindi molta di quella gente c'è andata a finire dentro, poi ne è uscita salva, e hanno provato a elaborare che cos'era il campo di concentramento, e hanno capito che il campo di concentramento non era altro che un sistema concentrazionario che aveva le stesse radici del carcere, cioè il carcere e il campo di concentramento nascono negli stessi con gli stessi valori: annientare la persona, annichilirla, togliergli ogni libertà di vita fisica e psichica, e tenerla in balia di qualcun altro, sia un ordinamento penitenziario, un gruppo di militari, chiunque siano, però sta in balia di altro. Questa è la galera, questo è il campo di concentramento. Allora, quando finita la guerra, finita la guerra, hanno detto bisogna andare un po' a fondo, non possiamo tenere ancora le carceri, perché poi queste, radicalizzando quel concetto di concentrazionario, che è il meccanismo del carcere, possiamo arrivare di nuovo al campo di concentramento. Ci siamo arrivati una volta, anzi due volte, perché la prima volta i campi di concentramento compaiono nella guerra anglo-boera nel Sudafrica tra i due occupanti, gli inglesi e gli olandesi chiamati boeri, gli inglesi che volevano prendersi questo il Sudafrica ricco di ancora adesso di platino, di oro, ma anche decisivo perché era lo snodo tra due oceani. E beh, quindi si fu uno scontro tremendo, ferocissimo, ai primi del secolo del Novecento, con la comparsa dei campi di concentramento, e poi sono ritornati nella seconda guerra mondiale grazie ai nazisti, e quindi questa cosa ha detto bene, per fare in modo che non avremo più a che fare con queste forme di sterminio, dobbiamo mettere in discussione anche i principi su cui si regge il carcere, e questo è un po' il discorso. Il ragionamento, e quindi dopo questo grande sviluppo che ha avuto l'abolizionismo sul piano, che ha fatto discutere tanta gente, considerate che in il portato di quel dibattito sull'abolizionismo delle galere e di ogni stanza, di ogni meccanismo, di ogni dispositivo concentrazionario, ha prodotto anche la chiusura dei manicomi, la critica al controllo psichiatrico, che ha prodotto quella legge 180, che poi è stata svuotata di significati nel corso del passaggio nelle due camere del Parlamento, però comunque che è comunque un fatto molto importante, e cominciava a far discutere anche dell'abolizione del carcere. Questo negli anni 60 e 70, che sono gli anni in cui l'Europa, sui temi importanti della condizione umana, questo fatto qui dell'abolizione dei sistemi concentrazionari, quindi carcere, manicomio, altre cose, sulla libertà di cura, anche questo è saltato, tutte le questioni riguardanti il lavoro, no? L'abolizione dei meccanismi, dei luoghi di produzione che creano nocività, quindi quasi tutti sostanzialmente, però insomma affrontare il problema della nocività sul lavoro, la critica anche al lavoro salariato come sistema in qualche modo che anch'esso abbia un portato di schiavitù, e una serie di cose, la critica al sistema coloniale, considerate negli anni 60 la gran parte dei paesi colonizzati si sono liberati dal sistema coloniale diretto, vero e proprio, ovviamente poi sono finiti chi più chi meno, chi in modo diverso, sotto altre grinfie del sistema non più coloniale ma imperialista, cambiati connotati o comunque sotto dittature, insomma comunque la storia si muove, va avanti, e le lotte producono un movimento nella realtà storica non si raggiunge il paradiso, anche perché non credo che ci sia, ma si portano comunque dei cambiamenti sostanziali alla condizione umana. E poi vabbè, l'Europa appunto in quei due decenni 60-70 ha espresso il massimo di sé, poi è caduta nelle politiche liberiste che l'hanno degradata anche a un livello culturale. Voi vedete che culturalmente l'Europa non produce più niente. Prima era al primo posto sui film, anche su alcune situazioni musicali, teatro eccetera, adesso è all'ultimo posto più o meno su tutti i punti. E vabbè, e va male, però è così, è l'andamento delle... il problema è che è appunto alcuni compagni, hanno detto vabbè, è il caso di ritirare fuori il dibattito sull'abolizionismo. Per quale motivo? Adesso, proprio adesso, in cui vediamo che così soprattutto questa Europa è gestita da una classe dirigente, tutti i paesi dell'Europa, chi più chi meno, ma fanno tutti schifo, non è che ce n'è uno che si salva a livello attuale, sono forse il peggio della dei meccanismi governativi che mai l'Europa ha espresso. Questi di adesso sono un po' il peggio che nella storia recente dell'Europa si è espresso. Sicuramente gli ultimi 50 anni sono i peggiori che si sono mai visti in giro, questi che governano l'Europa. Lo vedete come trattano, con che violenza, brutalità, ferocia, volgarità anche affrontano il problema dell'immigrazione, un fenomeno che tutti capiscono che è inarrestabile, prodotto dalle guerre, dai massacri, dall'impoverimento di alcune zone, di cui la responsabilità dell'Europa è importante, è notevole, a volte è diretta, a volte è indiretta, a volte è al 100%, a volte comunque è sempre una grossa responsabilità che ha l'Europa, nelle guerre, devastazioni, impoverimento eccetera, e questi fenomeni producono appunto il fenomeno enorme di immigrazione. Arrivano ondate di persone perché non possono vivere in quelle situazioni di guerre, di massacri, di devastazione, di povertà, e vengono trattate in quel modo, come lo vediamo in televisione. Quindi ormai non c'è più niente, nessuno può dire io non lo sapevo, come hanno cercato di dire i contemporanei dei campi di concentramento, dei campi di sterminio, hanno detto io non lo sapevo. Non è vero, perché sapevano, perché quando vedi arrivare ad Auschwitz, per esempio, che pensavano che era un luogo di addestramento dei militari, perché i militari si vedevano entrare e uscire, dice ci stanno i militari. Quando arrivavano treni con vagoni blindati, centinaia di vagoni blindati che entravano là dentro, e derrate alimentari che ne arrivavano più del necessario, non è che ci voleva molto a capire che lì c'era qualche altra cosa. Comunque la scusa fu non sapevamo eccetera. Adesso nessuno può dire non sappiamo, non lo sapevamo. Sarà un problema, come i nostri contemporanei, qui tutte noi e non nessuno è innocente, per favore non facciamo le mani pulite, qui non ce l'ha nessuno, ma proprio nessuno, perché in realtà il nostro nome, così come quando ti mettono in galera la gente, dicono il nome del popolo italiano, il giudice dice così, no? Il nome del popolo italiano, ti condannano all'ergastolo, a 30 anni di galera eccetera. Adesso in nome del popolo italiano fanno quei massacri, mettono fili spinati, fanno stare in giornate invernali mesi, settimane in mezzo al fango, alla polvere, bambini, donne, uomini, tutte cose inaudite, insomma. Quindi e queste cose le fanno in nome nostro, per salvaguardare che cosa? Il livello minimo di benessere, ma di malessere, perché poi perlomeno sì, le classi medio-alte hanno un benessere, però quelle basse o medio-basse non ce l'hanno tanto. Però anche loro dicono, anche questo malessere però minimo che avete, se volete conservarvelo, permetteteci di fare i criminali, massacrando le ondate di persone che vengono qui e facendo finta di dimenticare che l'Europa, ancora sul piano storico, è quella area del mondo che ha prodotto più immigrati che tutte le altre messe insieme. Chiaro sta cosa? Quindi se un europeo dice io sono contro l'immigrazione, è un imbecille, è un ignorante, è una persona, è una non persona, perché dall'Italia, ad esempio, sono andate via 15 milioni di persone. Lo sanno tutti, lo diciamo sempre come battuta, la città più piena di italiani non è Roma, che ce n'ha 3 milioni e mezzo, è Buenos Aires, che ce n'ha 5 milioni di italiani, stanno lì in quella città. Quindi la città più piena di italiani non è Roma, e poi tante altre, ma la Francia pure, ma la Germania, tutti i paesi hanno prodotto, l'Europa ha prodotto più immigrazione, per non parlare della Turchia, della Spagna, della Grecia. Eppure fanno adesso gli anti-immigrati. è quasi, è una volgarità inaccettabile, e evidentemente c'è anche una grossa ignoranza, e la classe dirigente che governa questo paese e gli altri europea dimostra la loro ignoranza quando aprono bocca, perché è quasi da tapparsi le orecchie. Guardate uno, il nostro Renzi, insomma, che come parla dice degli sfondoni da tutti i punti di vista. Vabbè, a parte questo, andiamo avanti noi con il nostro discorso, tanto questa cosa credo che si sappia, che poi però c'è una, vabbè, c'è un modo, uno stare fermi per cosa? Probabilmente per difendersi quelle quattro briciole che ci sono rimaste. Vabbè, una volta, sapete questa battuta, penso che la sapete tutti, no? Engels, l'amico e il collaboratore di Carlo Marx, no? Che però aveva fatto un lavoro su indicazione di Carlo Marx, l'analisi sullo stato della classe operaia inglese, perché quando si prestava ad analizzare l'andamento del sistema capitalistico, quindi l'utilizzo del sistema capitalistico della forza lavoro, quindi della classe operaia, l'utilizzo di questo lavoro, come funziona il rapporto capitale forza lavoro, tutto questo intreccio, Carlo Marx aveva bisogno, oltre di studiare, come aveva fatto, tutti i precedenti analisi storici, Smith, Ricardo, tutti quelli che avevano già scritto prima di lui il funzionamento del sistema capitalistico, voleva vedere come si comportava la classe operaia dentro queste fabbriche messe su dai capitalisti. E quindi Engels, che conosceva bene l'Inghilterra, gli disse: tu vai lì, conosci gente, fai un'inchiesta sulla realtà della classe operaia inglese, se fa lotte, si organizza sindacalmente, se reagisce allo sfruttamento oppure no. Engels fece questa analisi, lo stato della classe operaia inglese, che è un bel libro su cui Marx ha lavorato, eccetera. Arriviamo alla fine dell'Ottocento, poco prima che Engels morisse, Marx era già morto, c'era stato tutto, il capitale scritto, il movimento operaio nato, la prima internazionale, la seconda, lotte, il paese che doveva essere in prima linea, secondo loro, in questa lotta contro il capitale era appunto la classe operaia inglese, perché i livelli di sfruttamento capitalistico erano i più alti, e quindi il reagire delle organizzazioni sindacali inglesi dovevano essere le più alte. E invece si erano un po' seduti, e lì, facendo una piccola successiva inchiesta, Engels disse alla fine, tirò le somme e disse: la classe operaia inglese si è venduta per un piatto di lenticchie. Come dire, quattro soldi che gli hanno dato, perché l'Inghilterra nel frattempo sfruttava le colonie, si sono fermati e fanno soltanto rivendicazioni economiche, ma non fanno più una lotta reale contro il capitalismo. Ecco, anche noi ci stiamo vendendo per un piatto di lenticchie. Evidentemente fa parte della miseria umana questo vendersi, abbiamo paura di perdere questo piatto di lenticchie che abbiamo, e quindi facciamo, vabbè. Torniamo quindi al discorso dell'abolizionismo. Finisce la questione dell'abolizionismo, abbiamo detto, e è venuto invece il sistema, si sono riempite di nuovo le carceri, siamo arrivati a livelli di sfondamento non solo in Europa, non solo in Italia, ma anche in Inghilterra. Cameron, l'abbiamo detto la volta scorsa, 10 giorni fa, ha detto: il sistema penale inglese è un fallimento, l'ha detto lui, è anche un conservatore, bisogna riformare tutto, l'ha detto anche Obama, le carceri americane lì stanno a livelli spaventosi, l'hanno detto tutti, cioè il sistema penitenziario e il sistema penitenziario di questi paesi è stato un fallimento, perché, e questi sono dati che dicono loro, non ha prodotto un reinserimento delle persone che escono dal carcere, tornano a fare quello che hanno fatto prima, a delinquere, perché evidentemente le condizioni socio-economiche che le hanno portate prima a fare dei reati non erano cambiate, e quindi sono costretti a farli di nuovo. Primo. Secondo, addirittura il carcere crea criminalità, cioè che uno entra dentro perché insomma ha fatto un furtarello o qualcosa, poi lì dentro conosce altre persone, si impara un mestiere, quando esce quindi sa un po' di più di nozioni, c'ha già il gruppo di amici con cui riprende a fare l'attività estralegale, cioè quindi produce criminali, non rieduca né reinserisce, ma devasta, fa nascere odio dentro le persone, ripulsa verso rancore, ripulsa verso la società che l'ha condannato, perché ricordate appunto il giudice ti condanna in nome della società. E poi è anche vero, perché le carceri sono empite in questi 30 anni, 40 anni di neoliberismo, proprio perché i governanti dicevano: noi dobbiamo tutelare la proprietà delle persone, e anche chi c'aveva, che so, una macchina scassata che valeva manco 10 euro dice: sì sì, mettiamola in galera così la mia macchina scassata è tutelata. Cosa che poi non è vera, perché tutti sanno che non è che aumentando le persone in carcere si hanno meno reati, al contrario, quindi non c'entra niente il carcere. Il carcere serve però a dare questa illusione di sicurezza, e va bene, questa è stata arrivata a questo punto. Allora, perché la domanda che facciamo iniziamo, perché a dei compagni è venuto in mente di rilanciare adesso una battaglia sull'abolizione del carcerario. È importante, invece si può fare, proprio perché è giunta un po' a conclusione per tutti, a maturazione, la assurdità, il non servire a niente in più, un alto costo, cioè, del sistema carcerario. Cioè adesso tutti quanti sono in grado di dire: il sistema carcerario fa schifo, non produce niente, costa solo un sacco di soldi, fa solo del male alla società, troviamo un'altra cosa. Quindi c'è questa contraddizione tra chi ancora è governante, i sistemi, chi ha la proprietà, chi sa di mantenere il carcere, però comincia a essere un problema mantenerlo così com'è. E in questa contraddizione ci si può entrare dentro, però con una grossa novità. E allora, quali sono? Quindi un punto è che c'è questa grossa contraddizione tra le stesse classi dirigenti. Il problema carcerario lacera anche il blocco di potere, da una parte perché costa troppo. In America sono 300 miliardi costa mantenere insieme in piedi quel sistema penale e carcerario di grandi dimensioni, cioè non serve a niente, fa solo sviluppare la malavita organizzata. In Italia costa 3 miliardi, non so, sono chiacchiere anche queste, e così via. Allora, quindi da una parte, d'altra parte hanno visto che è troppo alto la cosiddetta recidiva, cioè le persone che escono dal carcere per il 70%, 72% tornano a delinquere, vale in Italia, vale in Inghilterra, e infatti anche Cameron si strappava i capelli. Quindi c'è questa messa in discussione, intervenire in questo momento in cui c'è, e tra l'altro infatti loro, l'abbiamo detto già altre volte, sapete, tutti più o meno in America, la Clinton, il programma elettorale della Clinton porta a questo, a diminuire le presenze in carcere, aumentare le misure alternative. Cameron pure ha detto la stessa cosa, in Italia il ministro Orlando ha detto la stessa cosa, cioè, e sta anche avvenendo in Italia, no? Diminuire le presenze in carcere e aumentare quelle misure alternative, praticamente dal controllo penale interno o intramurario, quello che si fa in carcere, a quello esterno, quindi misure alternative che sono detenzione domiciliare, arresti domiciliari, divieti di spostamento di qua, di là, tutta una serie di misure che si consumano già, che uno svolge nel proprio territorio, nel proprio domicilio. Ecco, il meccanismo è questo, sta già avvenendo in Italia, in 3 anni si è passato dai 68-69 mila ai 52 mila, quindi un calo c'è stato di presenza in carcere, dall'altra parte sono aumentate le misure alternative. È un momento importante quindi per entrare in merito su questa cosa, per una serie di motivi. Uno, quello di dire: attenzione, chiaro che tutti dicono, i carcerati dicono meno male, usciamo dal carcere, andiamo in misura alternativa, è sempre meglio che rimanere qui dentro in quel posto orrendo chiamato galera, d'accordo, però il meccanismo del controllo penale esterno porta con sé gli stessi stigma, gli stessi marchi del carcere, del controllo penale interno, nel senso che quando una persona sta in detenzione domiciliare o c'ha le firme o c'ha le cose, è comunque una persona marchiata dalla repressione, cioè per tutti quella persona sarà una persona appunto che ha compiuto un reato e quindi visto come un sospetto. A casa sua ci vanno le guardie a controllare, sul posto di lavoro ci vanno le guardie a controllare, se sta al bar possono venire a controllare e così via. Ecco, quindi il meccanismo dello stigma, della selezione, della condanna non solo del giudice ma dell'opinione pubblica di quella persona permane, e questa cosa non va bene, questo è l'elemento centrale che bisogna abbattere. Quindi certo, diminuire del carcere va bene, ma non portare dentro le misure alternative gli stessi meccanismi di emarginazione e stigmatizzazione del carcere. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che si è analizzato un po' appunto il percorso delle analisi fatte, il lavoro fatto dall'abolizionismo degli anni 60-70, e si è visto che erano appunto grosse elaborazioni teoriche molto interessanti, però hanno riguardato prevalentemente degli studiosi, degli intellettuali, delle grosse. In realtà poi si è visto che nel concreto della modifiche avvenute nel sistema carcerario dei paesi che hanno adottato delle riforme sostanziali è valsa molto di più il muoversi dei detenuti organizzati. Anche in Italia quelle poche cose cambiate dal sistema degli anni, dei primi anni, la riforma del 75, quella dell'86, le varie riforme fatte sono state prodotte non tanto dall'elaborazione di qualcuno ma dalla produzione di conflitti, lotte e proteste della popolazione detenuta più o meno organizzata. Quindi per cui il motore del cambiamento anche in carcere, così come nel resto della società, è da chi subisce la repressione. Chi subisce la repressione in carcere? Detenuti e detenute, più il loro contorno di amici, persone care, eccetera. Questi devono produrre un movimento di lotta per iniziare questo percorso dell'abolizionismo. Cioè deve nascere là dentro, alla base, deve essere un movimento dal basso, che non solo dei detenuti attualmente esistenti, ma di quelli che lo diventeranno, lo potranno diventare. Chi vive in certe condizioni sa che nella sua prospettiva di vita c'è il carcere, anche ci può essere, probabilmente ci sarà, insomma non è certo, però insomma è molto probabile, perché vede l'amico che ci va, quella, perché date delle situazioni di difficoltà di vita è chiaro che no, infrangere la legge diventa quasi un obbligo. Allora, quindi l'altro elemento fondamentale è portare avanti un movimento abolizionista che parte dal basso. Quindi però non solo, appunto, non solo i detenuti in realtà vanno, cioè va cambiata quest'ottica di vedere i detenuti come qualcosa a sé stante, quelli che stanno in galera, anche perché se voi vedete questi numeri, no, che dico adesso, vedete che la mobilità interna al carcere è altissima, ne entrano circa 70-80 mila all'anno e altrettanti ne escono. Quindi che vuol dire? Che c'è un ricambio continuo di carcere. Infatti i dati ci dicono che la media delle persone che stanno in carcere hanno da fare pochi anni, 3, 4, 5, quindi entrano, stanno un po' d'anni, poi riescono. Quindi c'è questo continua mobilità tra dentro il carcere e nei quartieri da cui provengono questi. Allora, il movimento anticarcerario reale, quello abolizionista, adesso non chiamiamolo più anticarcerario perché è limitativo questa cosa, non è il carcere che dobbiamo colpire, è la logica della punizione intesa come sottrazione di libertà, deportazione, devastazione, isolamento, eccetera. Questa cosa non si deve accettare e bisogna appunto fare in modo che quegli ambienti, che producono i clienti del carcere, perché c'è poco da fare. Sono, se vedete i dati, provengono i carcerati al 90%, ma anche al 95%, dai quartieri periferici, da quelli devastati, quelli con alta a livello di disoccupazione, quelli senza servizi e così via, perché ovviamente sono quei posti lì che producono le attività estralegale che poi ti portano in carcere. E allora da lì dentro deve venire il movimento per l'abolizione definitiva del carcere, non solo del carcere intesa come le mura, le sbarre, l'edificio, che so questo che sta a Rebibbia, non è quello, ma proprio il meccanismo del controllo penale. E qui arriviamo, facciamo un altro salto. La critica al carcere ha portato alla critica al sistema penale complessivo. Ci arriviamo tra un attimo. E allora, dicevamo, dal carcere si è riuscito a mettere sotto critica il sistema penale nel suo complesso. Il sistema penale che è organizzato intorno al processo. Che cos'è il processo? Il processo è quella cosa che conosciamo tutti, no? Quando qualcuno viene arrestato in una manifestazione o così un po' parapiglia con le forze dell'ordine, o per un'occupazione di case o per un'altra cosa, poi si va al processo e il processo decide se è innocente o colpevole e dà gli anni di galera. Ma questo vale per tutti quelli che cosiddetti infrangono la legge. Il problema del processo è un problema che impedisce, analizzando proprio il meccanismo con cui è condotto il processo, al di là che sia stato che della validità del sistema, diciamo, delle persone giudicanti, potrebbe essere anche i migliori giudici di questo mondo, non è proprio il meccanismo con cui è condotto il processo, impedisce di conoscere il motivo del perché è stata compiuta un'azione, il retroterra di quell'azione, la storia delle persone che l'hanno compiuta, la loro biografia e quindi come è nata e come si è conclusa. Il processo individua solo i fatti concreti. Questo ha tirato un sasso a una vetrina, punto. Basta trovare la telecamera o i testimoni che dicono sì, è vero, quello ha tirato un sasso a una vetrina, punto, e basta, ti prendi i tuoi anni di galera e te ne vai in carcere e finisce lì. Ecco, è chiaro che non permette nulla di conoscere nulla il processo di quello che interessa a noi, cioè la storia, le motivazioni politiche, economiche, il contesto, il quadro, la biografia delle persone. Insomma, e allora il fine, il fine, l'obiettivo che si voleva porre quella persona che ha violato la legge o quell'insieme di persone, ancora più grave, il processo non permette di conoscere niente quando si tratta di conflitto sociale, quindi quello che unisce più persone, quantità enormi di persone, perché che so, rivendicano la casa, un tetto sulla testa perché non ce l'hanno, oppure un salario, oppure lottano contro la disoccupazione, oppure contro il licenziamento o altre cose. Il processo non permette di capire, di fare il punto politico sulla questione. In realtà, e quindi non va bene, cioè bisogna proprio rifiutare il concetto del processo come luogo, come elemento, luogo, meccanismo, dispositivo per capire la verità su un fatto. Quindi immaginate quanto è sbagliata, fuorviante, anche un po' infantile, puerile il dire sotto un tribunale o una corte, dire vogliamo la verità sulla morte di questo, dire, chiedere la verità a un processo è una contraddizione in termini, è un'assurdità, è un infantilismo, è una cosa ridicola, perché è per i meccanismi stessi del processo non può venire fuori la verità su un fatto importante, su un fatto dove c'è stato qualcosa di importante, e quindi va completamente rifiutata. Così come non, la critica al carcere, non bisogna dire buttiamo giù le mura, perché non sono le mura l'essenza del carcere, ma il concetto di punizione portata sul terreno della sottrazione di libertà, dell'emarginazione, della reclusione. Così il sistema, appunto, il voler conoscere la verità su un fatto, un conflitto di massa, ma anche un'attività singola, non può passare attraverso il processo. Poi lo dicono i migliori scrittori, anche storici, che il processo non permette di capire la verità storica su alcuni grossi conflitti avvenuti, di nessun tipo. Ci sta quel bel definizione dei, dopo la Comune di Parigi, un fatto, una svolta storica dell'umanità, in cui si è dimostrato che si può cambiare una società con intervento delle masse sul terreno, e poi è stata sconfitta con un massacro enorme. Ebbene, poi i vincitori, cioè il governo di Versailles e tutti i potenti eccetera, i generali eccetera, l'hanno raccontata a modo loro. E i comunardi, che hanno portato la pelle poi a casa e hanno scritto, hanno raccontato della comune, hanno detto che i borghesi avevano raccontato un evento così importante, un avvenimento così importante come la Comune di Parigi, con la cooperazione tra persone eccetera, a una sequenza di atti criminali. È chiaro, questa è la falsificazione che avviene, e il processo permette proprio di falsificare, di fare questo falso totale, cioè un'azione di un gruppo di persone, una massa di persone o anche soltanto di un individuo che fa una violazione di legge o qualcosa che non sta bene al potere, viene fatta, viene messa fuori come un insieme di azioni criminali. Mentre invece è un complesso di cose che parte da una condizione e vuole arrivare a un obiettivo, a un cambiamento di quella condizione. Ecco, questa cosa il processo non lo permette, quindi bisogna mettere sotto critica anche il processo. Quindi questa cosa deve essere vista un po' in un'ottica diversa. Tutto il cosiddetto movimento anticarcerario che c'è attualmente, poco, piccolo, però piccolo che sia, deve riuscire a rivedere i propri slogan, e che significa anche il proprio modo di pensare, mettendo in atto un ragionamento in grado di convincere le persone. Ed è possibile oggi convincere, perché appunto i dati che emergono, le valutazioni che danno anche alcuni diciamo addetti ai lavori, quelli che stanno dall'altra parte, che però riconoscono, non possono riconoscere il fallimento del sistema carcerario e del sistema penale, ecco, si può cominciare a far entrare un cuneo, una breccia per distruggere, insomma, cominciare a demolire questo apparato veramente vecchio e disumano che è il sistema carcerario. Allora, 15:50 riprendiamo il ragionamento. Lasciamo un attimo da parte questo discorso sull'abolizionismo, lo riprenderemo perché è un discorso importante e spero che segni così, come dire, che produca un movimento dal basso, fatto nei quartieri tra amici, compagni, fratelli, eccetera, dei detenuti, della popolazione detenuta, i detenuti che escono, perché escono in continuazione, perché appunto stanno, e quindi prendiamo insieme, costruiamo questo movimento abolizionista dal basso, perché si può fare in questa fase, portare avanti una battaglia che produca risultati veri, non imbiancare le celle o allargare il campo di pallone, ma abolire il carcere. Capite che la differenza è sostanziale. E allora lo riprenderemo e quindi continuiamo. Adesso vediamo un po' qualche fatto riguardante ciò che è successo nelle carceri in questi giorni. C'è un ragionamento, un'analisi fatta da compagnia, perché mentre è vero che diminuiscono le presenze in carcere, aumentano quelli in misura alternativa, però c'è un dato abbastanza preoccupante che succede nelle carceri che ci stanno. Allora, nelle carceri sta succedendo che, poiché da tantissimi anni, sono diversi decenni che non si fanno più concorsi per il direttore del carcere, i direttori dei carceri sono pochi perché molti altri in pensione, le carceri sono più o meno sempre le stesse, e allora se il ministero usa questo accorgimento di far diventare dei direttori e direttori part time di un carcere e part time di un altro, cioè molti direttori presenziano due carceri, stanno un po' di giorni su uno, un po' di giorni sull'altro. Il motivo è, dice, ma adesso sono carceretti piccoli, sono al di sotto di 100 persone, quindi è sprecato un direttore per un carcere così piccolo, può tenere due carceri, quindi quello sta alcuni giorni in un carcere, alcuni giorni in un altro. Questo fatto produce, giustamente qui, no? È che nei giorni in cui non sta in quel carcere delega a svolgere le funzioni di direttore, che qualcuno deve, per firmare tutte le cose, insomma, no? Il direttore è quello che presenzia tutte le domande che fanno i detenuti, vengono firmate dal direttore. Bene, ovviamente quando non c'è in quel carcere deve delegare chi? Il responsabile delle guardie. Quindi questo meccanismo, che era stato denunciato già tempo fa da Margara alcuni anni fa, della militarizzazione delle carceri, non perché siano un problema non militarizzato, no? Però nel carcere sono state fatte, prodotte così, il carcere moderno, con questa doppia valenza, no? Proprio per cercare di smussare l'eccessiva militarizzazione che c'è sempre stata nei luoghi di detenzione, cioè fare in modo che ci siano le guardie con la loro gerarchia in un carcere, che sono quelli che stanno a contatto dei detenuti, e poi il personale civile, cioè due luoghi di potere, quello delle guardie e quello del personale civile, fatto da direttore, vice direttore, gli educatori, eccetera, no? Questo personale civile, che hanno un'altra impostazione, anche perché non sono militari, dovrebbero operare in maniera diversa. Poi non è sempre così, però comunque questo è un meccanismo centrale. Bene, questo fatto di fare i direttori del carcere part time, cioè alcuni giorni in un carcere, alcuni giorni in un altro, porta invece a dare la delega al comandante delle guardie, che fa le veci del direttore. Quindi questo fatto è una vita. In più c'è un altro meccanismo che è stato fatto, il governo ha fatto una sorta di i commissari di polizia, è stato fatto, come dire, un cambiamento delle funzioni. Il commissario di polizia può assolvere le funzioni di direttore del carcere. Ecco, quindi il commissario di polizia può sostituire per delega il direttore del carcere. E questo significa che appunto in prospettiva, dicono alcuni, rischia di saltare questa divisione dei poteri tra militare e civile, che comunque a volte può tenere in criteri un po' più, tranquilli la situazione carceraria, perché a volte uno dei due vuole brutalmente aggredire la popolazione detenuta, l'altro potere può smussare questa presenza, quindi i due poteri possono in equilibrio garantire, diciamo, poi non succede quasi mai, però insomma, a volte succede, no? Il detenuto, se è furbo, è successo, chi è stato in carcere lo sa, a volte se sei intelligente, se soprattutto i detenuti sono organizzati, posso utilizzare le differenze vedute che c'è tra il corpo della polizia penitenziaria, i loro dirigenti, e quello del personale civile. Lavorando sulla contraddizione tra queste due persone, questi due gruppi dirigenti, si può ottenere qualcosa di più dei detenuti. L'abbiamo fatto e si continua a fare, quindi questa cosa è reale. Togliendo questa quello che sembra dall'analisi di questo studio fatto da alcuni compagni, che riprendono un vecchio discorso di Margara che faceva già 6 anni fa, l'aveva annunciato questo pericolo, questa tendenza, intravedeva questa tendenza di militarizzazione della direzione del carcere a un'unica direzione solo, quella militare, pare che stia avvenendo, e quindi è un problema da tenere presente, perché sì, è vero che appunto la presenza in carcere diminuisce, però insomma, se queste sono le premesse, insomma, non va bene. Per finire, siamo ci sono delle tensioni in carcere. In carcere si sta male, nonostante che sia diminuita la presenza in carcere, si sta sempre male, anche perché è diminuita la presenza in carcere, quindi non tutte le carceri sono sovraffollate, però alcune sono sovraffollate, rimangono sovraffollate, e comunque non è il sovraffollamento che crea tensione, è tutta una serie di meccanismi che non funziona niente. In carcere si sta male, e quindi non si sopporta. E allora è successo che al carcere di Belluno, per esempio, c'è stata una sorta di ovviamente qui i giornalisti chiamano rivolta proteste che rivolte non sono. La rivolta è caratterizzata per come si è sviluppata nel percorso conflittuale della popolazione detenuta in Italia, e non solo in Italia, in Francia, in America, eccetera, in gran parte dei paesi. Il movimento dei detenuti, quando produce una rivolta, significa che prende possesso del carcere, cioè sequestra guardie, prende possesso del carcere e contratta poi col potere per alcune cose, però ha in mano il carcere, come l'occupazione di una fabbrica, l'occupazione di un carcere, che è un po' più pesante perché quello è uno strumento militare, esatto. Quindi i giornalisti, ovviamente, qualunque protesta, siccome purtroppo sono abbastanza scarse le proteste in carcere, quelle poche proteste che ci stanno vengono chiamate rivolte. Per esempio la battitura, che è uno strumento di lotta molto normale, che si fa spesso, la battitura delle cose di metallo, pentole, padelle, contro le sbarre, fanno un rumore pesante che permette di far sentire la voce dei detenuti fuori, lontani, in più per disfunzionare un po' il sistema carcerario. Chiamare la battitura una rivolta, insomma, è un po', i giornalisti parlano a bamba. Non è una rivolta, però è stata una protesta abbastanza pesante nel carcere di Belluno, proprio 24 ore dall'arrivo del ministro Orlando. E insomma, è successo che, per una serie di motivi, insomma, chiedevano delle cose, no? degli obiettivi, però pare che non ricevevano alcunché, e quindi hanno deciso di, prima hanno fatto una fermata all'aria, hanno cominciato la battitura, poi uno non è voluto rientrare in cella, insomma un po' di sommosse così. È dovuto intervenire appunto la forza pubblica e questo avviene in molte carceri, succedono queste cose, però insomma non è che nelle carceri non succede niente, le proteste ne avvengono, a volte sono isolate, a volte sono fatte da gruppi di detenuti, a volte da un solo detenuto, a volte collettivamente. Il problema è perché stanno male, per esprimere la rabbia, la mancanza di ogni cosa, fanno queste proteste. La cosa che diciamo è difficile da mettere in piedi, però quello che si dovrebbe fare è far sì che tutto questo movimento di detenuti arrabbiati perché le cose non vanno diventi un movimento, appunto queste singole proteste sparse qua e là diventi un movimento vero e proprio, cioè sia collegato. E questo può sia collegato, si muova intorno a una serie di obiettivi pochi ma precisi per ottenerli, e fatto con una serie di lotte scadenzate, cioè organizzate. Se